Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Babbo! C'è una donna nuda nel mio letto. Si può sapere chi è? Deve essere il Mascetti. Il Mascetti lo conosco, è un uomo. We'll be right back. La notte i cani randagi invadevano la città. Centinaia e centinaia di cani che, approfittando dell'altrui paura, si rovesciavano nelle strade deserte, nelle piazze vuote, nei vicoli disabitati. E da dove venissero non si capiva, perché di giorno non si mostravano mai. Forse di giorno si nascondevano tra le macerie, dentro le cantine delle case distrutte, nelle fogne, con i topi. Forse non esistevano, perché non erano cani, bensì fantasmi di cani, che si materializzavano col buio per imitare gli uomini da cui erano stati uccisi. Come gli uomini si dividevano in bande arse dall'odio, come gli uomini volevano esclusivamente sbranarsi, e il monotono rito si svolgeva sempre con lo stesso pretesto: la conquista di un marciapiede reso prezioso dai rifiuti di cibo e dal marciume. Avanzavano lenti, in pattuglie guidate da un capo pattuglia, che era il cane più feroce e più grosso. E all'inizio non li notavi perché procedevano zitti. La strategia dei soldati che strisciano in guardingo silenzio per piombare sul nemico e scannarlo. Questo era l'incipit di Inshallah di Oriana Fallaci. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, were not all bad. We put our features where they had to go. due brani caldi, potrei definirli così, dell'eclettica di questo periodo. Uno scelto personalmente da me ancora in estate, quando Eclettica non era in onda, e avevo già deciso così, senza nessun confronto, di farlo diventare un tormentone, Postcards from Italy. Invece quello degli Eagle Seagull avete aiutato e state aiutando anche voi a farlo crescere, quindi arriva dal basso. È vero, la prima volta l'ho programmato io, è stata una mia scelta, ma non ero così convinto che potesse avere lo spazio che invece sta avendo, grazie sempre anche al confronto con voi, al riscontro che voi fornite o sulle pagine di MySpace o scrivendo direttamente a giulio@radiorockfm.com, che è l'indirizzo anche a cui scrivere, ormai per Bugo non ce la si fa più. Comunque, per il concerto invece dei Marta sui Tubi del 20 di questo mese ad Azzano San Paolo, provincia di Bergamo, allo Zero Music Club. Poi ci sarà un novembre caldissimo, parecchi bei concerti da regalarvi per novembre. Non è che un concerto di Marta sui Tubi non sia bello, anzi. Vediamo di cambiare atmosfere musicali rispetto a quelle tendenzialmente acustiche di inizio di quarta parte di Eclettica, passando all'Inghilterra, da cui proviene Andy Stott, che arriva al disco d'esordio dopo aver pubblicato veramente una caterva. Erano stati tantissimi i pezzi, i singoli, gli EP pubblicati negli ultimi mesi, soprattutto 12 pollici. Questo è Merciless, il suo disco d'esordio, che si apre con una traccia che ha per titolo Florence, così, tanto per rimanere in Italia. boss. Non era morto. Quello è come i gatti, ha 7 vite. E quell'altro? Com'è finito là dentro? Era un traditore. Abbiamo dovuto eliminarlo. Captain Murphy da Stoccolma, una carriera cresciuta dal basso, hanno cominciato con il farsi un seguito, poi a poco hanno trovato un riscontro anche nelle vendite dei loro dischi, soprattutto nella loro zona. I primi anni suonavano parecchio, 10 anni che esistono. Ora vi lascio con un artista che penso tornerà più di una volta all'interno di questo spazio. Profumo di Eclettica. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it.

E dopo aver dato conto anche della nuova prova fuori da pochi giorni di Jason Molina, che è Neil Youngeggiante più del solito in questo caso, nuova prova a nome Magnolia Electric Co., che è la ragione sociale che sta usando da un po' di tempo a questa parte, siamo anche arrivati alla conclusione di Eclettica per quanto riguarda la settimana. Fading Trails è l'album per Secretly Canadian dal quale ci siamo ascoltati Lonesome Valley. Giulio Caperdoni vi saluta e vi rimanda alla prossima.